50 domande su Gesù. Che cosa fu l'editto di Milano? All'inizio del IV secolo, i cristiani subirono un'altra efferata persecuzione scatenata da Diocleziano insieme a Galerio nell'anno 303 e conosciuta come la Grande Persecuzione, nell'intento di restaurare l'unità statale minacciata, a suo parere, dall'inarrestabile crescita del cristianesimo. Fra le altre cose, venne ordinato che fossero demolite le chiese dei cristiani, bruciate le copie delle Bibbie, condannate a morte le autorità ecclesiastiche, privati tutti i cristiani delle cariche pubbliche e dei diritti civili, e che i cristiani fossero obbligati ad offrire sacrifici agli dèi sotto pena di morte, eccetera. Di fronte all'inefficacia che ebbero queste misure per debellare il cristianesimo, Galerio, per motivi di clemenza e di opportunità politica, promulgò il 30 aprile del 311 il decreto di indulgenza, per cui cessarono le persecuzioni anticristiane. Fu riconosciuto ai cristiani il diritto di praticare la loro religione con la libertà di celebrare riunioni e costruire templi. Frattanto, Costantino era stato eletto imperatore d'Occidente. Dopo la sconfitta di Massenzio nel 312, nel mese di febbraio dell'anno seguente, si riunì a Milano con l'imperatore d'Oriente Licinio. Fra le altre cose, trattarono il problema dei cristiani e convennero di emanare nuove disposizioni in loro favore. Il risultato di questo incontro è quello che si conosce come Editto di Milano. Sebbene probabilmente non è esistito un editto promulgato con questo titolo da due imperatori, ma soltanto quello pubblicato da Licinio per la parte orientale dell'impero. Il testo ci è arrivato da una lettera scritta nel 313 ai governatori provinciali, raccolta da Eusebio di Cesarea e da Lattanzio. Nella prima parte dell'editto si stabilisce il principio di libertà di religione per tutti i cittadini. In pratica, veniva concesso di praticare la propria religione non solo ai cristiani, ma a tutti, qualsiasi fosse il loro culto. Nella seconda parte si disponeva di restituire ai cristiani i loro antichi luoghi di riunione e di culto, così come le altre proprietà che erano state confiscate dalle autorità romane e vendute a privati nella passata persecuzione. Lontano dall'attribuire al cristianesimo un luogo preminente, l'editto sembra piuttosto voler conseguire la benevolenza da parte di qualsiasi divinità, in consonanza col sincretismo che allora praticava Costantino, che malgrado favorisse la Chiesa, continuò per un certo tempo a dare culto al sole invitto. Comunque, il paganesimo cessò di essere la religione ufficiale dell'impero, e l'editto permise che i cristiani godessero degli stessi diritti che gli altri cittadini. Da questo momento il cristianesimo divenne una religione riconosciuta da parte dell'impero, la qualcosa favorì una sua rapida fioritura.